Qual è l'idea? Qual è? Qual è l'idea? Qual è l'idea? Qual è? Fuori, fuori, fuori, fuori. Tutte le parole in rivolta, da dentro verso fuori. Io sono una colpa verso la natura. Noi siamo una colpa verso la natura. Addio, qual è l'idea? Qual è l'idea? Girano, girano, vorticano, vorticano le lettere. Tutte le parole in rivolta, tutte le parole perdono il loro luogo, il loro ordine, il loro senso previsto. Lettere leggere, leggere, lettere leggere. Fuori, fuori, la rivolta tocca tutti. Tutti partecipano, tutti rendono leggere queste parole. Queste lettere volano, volano nel teatro della corte e compongono nuove parole, mai immaginate e mai dette, solo sognate. Lettere leggere, volano, volano, volano a comporre nuovi sogni, nuove parole, nuove immagini, a pensare quello che non è stato nemmeno mai pensato. Ritornano, ritornano bambini, D, M, U, C, C, R, C, R, C, M. Parole, parole, parole, parole si formano in libertà, suoni mai uditi, parole mai lette, mai viste, tutto gira, un carillon mai immaginato, una giostra per bambini, una giostra per l'essere inerme. Con lo sguardo aperto arriva al mondo che tutto può sognare, tutto può ancora accadere, nulla di quello che è stato è mai stato, tutto deve essere ancora pensato, tutto deve avere ancora una possibilità. Cancella, cancella questo mondo, cancella, cancella, addio, addio, non essere, non essere, non essere, non essere, addio, addio, addio, addio, addio, addio.